Buonasera dalle frequenze di Radio Antenna Febbea. Siamo sempre noi che il martedì e il giovedì andiamo avanti con cosa succede in città. Questa puntata la dedico tutta ad Antonio, che nonostante stia non benissimo, alla fine sta è ancora tra noi, però è vaga e prepara la regia e lavora, perché voi ci potete ascoltare soprattutto grazie ad Antonio Salvo. E allora 100.3, 100.6 e 107 sono le nostre frequenze, oppure www.antennafebbea.it ci potete ascoltare in diretta o anche dall'applicazione Tanin. Avete sentito delle risate di sottofondo, perché oggi non sono sola. Buonasera a tutti gli ascoltatori, Lucia. E allora, ascoltatrici e ascoltatori, perché sennò le femministe si inquietano. Ma assolutamente, ecco. Prima di tutto è ascoltatrice. Ecco, perché sennò voi capite, perché molti non accettano il plurale maschile inclusivo, quindi lo specifichiamo. Noi siamo molto, diciamo, cerchiamo di accontentare un po' parte, tutti. Sì, sì, assolutamente. Va bene, e allora, oggi noi abbiamo te perché fai delle cose particolari. Tutti parlano ogni volta di cervelli che vanno via e tutto il resto. Tu in realtà la tua iniziativa, la tua inventiva l'hai messa comunque a frutto nella nostra città, che ripeto sempre non è una città facilissima, però voglio dire, lo stai facendo da un po' di tempo. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, ma pochissimissimi anni. Allora direi da 20 anni, da quando eravamo in fasce. Ah, dobbiamo andare così indietro? No, attenzione, da 20 anni, quindi da quando eravamo in fasce. Quindi se 20 anni fa eravamo in fasce, adesso abbiamo esattamente... Ma guarda, lasciamo, io mese stare prossimo divento maggiorenne e prendo il motorino, quindi... Ah, ok, quindi, però il 100, che è il 25, non lo so come funzionano queste robe. Va bene, quindi finora sei andato senza patente? Ovviamente. Ok. Chi segue i miei profili sa che ho anche una moto abbastanza importante. Ah, e quindi va bene. E allora, preparatevi per ascoltare qualcosa che succede in città, che succede da tempo e soprattutto che è completamente fuori dagli schemi, perché questa cosa è anche da mettere in evidenza, a mio avviso. Però prima ci ascoltiamo una canzone che io ho ascoltato stamattina, perché ho le playlist che vagano da me, no? Mio fratello mi ha regalato un coso, non dico che cos'è perché sennò faccio pubblicità, okay. A cui io dico fammi ascoltare, una cosa. Così. Non pensare mai, no, un elettrodomestico. E a un certo punto mi fa la playlist, perché mi dice non ti posso far ascoltare quello perché non c'hai Spotify Premium. Ti faccio ascoltare la playlist e ogni volta mi fa ascoltare della musica che diversamente non avrei mai ascoltato e che io poi ripropongo in radio. Perché Shazammo, quindi vedo che è, e poi chiedo al buon Antonio, scusa, ma me la metti questa cosa? E lui, devo dire che me la mette sempre. Va bene, a tra pochissimo. Ovviamente non era questa la canzone, perché la volevo far sentire prima, però ciccia. Facciamo che scoprirete qual è la canzone e magari telefonerete al numero 0965 898989 per dirmi: Maria Lucia, questa canzone effettivamente fa, diciamo, è discutibile, però è carina, niente. Tra l'altro mi ha fatto pensare ad alcune cose, quindi va bene. Quindi scoprite qual è la canzone a cui mi riferisco. Ciò detto, però, è interessante parlare adesso con il nostro Bac. Ti chiamerò Bac, non ti chiami Roberto. Ormai ha sostituito però il mio nome. Avvicinati, così i nostri radioascoltatori ti ascolteranno meglio. Per me ha sostituito il mio nome da una decina d'anni, almeno a questa parte, anche di più. Vabbè, sì. Allora, io di te inizialmente mi ricordo come promotore della gita degli artisti. Sì. Quindi quella è stata la tua nascita, tra virgolette. Insomma, perché prima la gita degli artisti è un'associazione che nasce relativamente da poco, da qualche anno. Prima semplicemente come Bac facevo queste iniziative, alcune più importanti. Nel 2010 abbiamo fatto la Zombie Walk, ad esempio, la storica. Quindi questa volta qualcuno che era con me stamattina la ricordava, devo dire. Molti la ricordano, soprattutto quando mi incontravano per la strada subito dopo e dicevano: ma stai meglio così, sei colorito, eccetera. Ero vestito da zombie, ragazzi. Per fortuna si è notato una ci differenza. Sarà un perché. L'abbiamo fatta per 2 anni, è stato un momento di rinascita cittadina, perché poi da là è nata tutta una tendenza, diciamo, anche artistica, che ha portato a concerti e alla creazione di diversi spazi culturali in questo ambiente a Saracinello. Sì, allora, ecco, cosa su cui metterei, diciamo, che metterei in evidenza, perché a Reggio si dice sempre che mancano gli spazi. Ah. Invece gli spazi, come abbiamo potuto anche notare in alcune occasioni, ci sono, però non si sa perché o non vengono valorizzati o non vengono sostanzialmente utilizzati, non vengono socializzati, no? Nel tuo caso invece l'hai messo, vabbè, tu hai una, diciamo bene dov'è, così se la, perché questo servirà, poi sarà funzionale anche in base alle attività di cui parleremo tra poco. La storia penso che sia molto interessante, perché il posto si trova vicino all'aeroporto, allo svincolo di Saracinello, praticamente esattamente localizzabile lì. Era un canile quando l'ho avuto a disposizione, l'abbiamo bonificato, sistemato, eccetera, con i ragazzi che hanno seguito il BAC in tutte queste iniziative. Inizialmente era la casa del BAC, semplicemente per anni è stata solo la casa del BAC, dove organizzavo eventi legati al gioco di ruolo, che è stata la mia prima, il mio primo accesso, diciamo il mio primo piglio verso il pubblico. E poi un paio d'anni fa abbiamo fatto una ristrutturazione abbastanza importante, abbiamo creato l'associazione La Gilda degli Artisti, perché penso che sia importante che non ci sia mai la vittoria di una sola persona, ma dare la possibilità di un'organizzazione orizzontale in cui tutti possano entrare. Grazie alla Gilda degli Artisti, ad esempio, come accennavo, ci sono tanti professionisti che offrono i loro servizi, che decidono di associarsi e collaborare con le iniziative. Penso che sia una cosa interessante, lo spazio. Assolutamente. Adesso è totalmente rifatto, parte di un antico complesso medievale che io ho ripreso con quello stile sempre tipo un castello, un po' fantasy, sì, diciamo, sì, così, sì. Anche se è un rustico fantasy, e diamo anche la possibilità ai visitatori, ai turisti, di visitarlo, di stare un po' con noi, e questa cosa piace moltissimo, perché comunque per i visitatori vuol dire passare del tempo in un posto assolutamente straordinario, cioè straordinario, diverso dai soliti circuiti. No, vabbè, ma comunque sicuramente è diverso dai soliti circuiti. Sì, sì, no, sì. Perché poi magari straordinario lo lasciamo dire a loro, però sicuramente non è banale, sicuramente non è una cosa inflazionata, no, quindi ma... diciamo è una cosa particolare da andare a visitare quantomeno. Sì, e poi è un po' anche la storia del quartiere. A Saracinello c'era questo pozzo che dava acqua a tutto il quartiere, una struttura molto antica che ancora adesso è in funzione. È bello che ci sia anche una memoria di questo, che la gente entri a contatto con la storia dei saraceni, con quel periodo storico lì. E poi in più ogni mese organizzo un calendario di eventi che è aperto assolutamente a tutti quanti, che spaziano da... Allora aspetta, prima di entrare nello specifico, perché magari facciamo un break musicale, però mi piacerebbe dare prima di fare lo stacco un riferimento internet, comunque web, Facebook, quel che è, in modo che i nostri radioascoltatori, mentre certo, ascoltano la splendida musica che sto per passare, possano andare a controllare che cos'è ed eventualmente contattarci per chiedere ulteriori informazioni, no? Certo, certo. Il mio sito con tutti gli eventi è il bac.it, il bak.it, e il sito della struttura è gildaartisti.org. Quindi sul bac.it ci sono tutte le iniziative che organizzo con e senza la Gilda. In questo periodo sono in giro anche a presentare un videogioco che è stato scritto da me nelle ultime settimane. No, non spoilerare, stai spoilerando. Io ho dato solo una, ok, anche perché entrando adesso nel sito è l'argomento principale. E verso gildartisti.org, tutto quello che è la struttura, dare un'occhiata così. Vabbè, è una cosa interessante, anche perché poi vedremo, ricorderemo eventualmente come ti possono contattare, così se vogliono fare anche una domenica, qualcosa insieme in un posto che comunque è in città, però è particolare, ripeto, magari si può organizzare. 0965 89 89 89. Adesso break e poi la splendida musica di Antenna Pepe. A tra poco. E siete sempre sulle frequenze di Radio Antenna Febea. Questa è Cosa Succede in Città. Passiamo anche questo. State parlottando, io sono in diretta, ma va bene, partecipiamo così. Bene, bene. E allora, stavamo parlando della gita degli artisti, stavamo parlando di questo posto sì, fantastico in qualche modo, no? Diciamo fantastico da fantasia, di fantasia, però è reale, quindi interessante. Allora, intanto che tipo di attività hai in programma, così i nostri radioascoltatori si possono già segnare qualcosa, anche se sul sito comunque c'è. Sì, sì, sul background Twitter c'è tutto. Premesso che la Gilda, come i miei eventi in generale, spaziano dal sociale fino al ludico, quindi anche in passato abbiamo collaborato a realtà sociali importanti. Ho anche venduto tempo fa i racconti della città di Grie a favore dei ragazzini che erano nel teatro di guerra turco, insomma, tutti iniziative abbastanza importanti. Questo mese portiamo sia una murder party, quindi una, okay, chiamiamola cena con delitto, che si intitola Happy Holidays Mr. Lawrence, in cui i partecipanti sono chiamati a risolvere questo mistero durante questa cenetta che si organizza da Gilda, una cosa un po' particolare. Per quelli invece più, diciamo, goderecci la cena medievale, che è una vera cena medievale con dei piatti rivisitati dalla nostra Carla, che è la cuoca che collabora, che permette comunque di mangiare dei cibi abbastanza particolari in tre momenti culinari importanti. C'è l'aperitivo di ruolo, che permette comunque alle persone di giocare ai nostri tavoli. Là c'è una ludoteca, e col gioco scritto io Lars giochiamo ai tavoli, il gioco di ruolo da tavolo, e quindi fare un aperitivo con gioco durante la serata. E poi organizziamo sia il cinema Grindhouse, che lo sono le serate di proiezione cinematografica, che in generale chi vuole organizzare una festa, una serata, mi può contattare, insomma, vediamo. E quindi è interessante. Allora, rispetto alle cose che hai detto, intanto la signora Carla, o comunque chi ti supporta nella preparazione, dicevamo a microfoni spenti che è sempre del quartiere, perché tu tendi a coinvolgere. Assolutamente sì, la realtà della Gilda nasce nel quartiere di Saracinello, un quartiere a cui sono legato strettamente perché abito lì quasi da sempre, insomma. E quindi quasi da 20 anni. Cerco... da lunghi 18 anni. E quindi sto cercando di mettere insieme un po' tutte le realtà locali, principalmente del quartiere, ma naturalmente anche della città in generale. Abbiamo avuto diverse collaborazioni. Nel quartiere ho trovato un po' le diverse realtà che ci supportano, quindi, come accennavo, dalla signora che ha il forno e che ci porta il pane, dalla signora Carla che ci dà che ci prepara del cibo ottimo, dei ragazzi del bar che ci fanno i cornetti, insomma non sono io che mi improvviso pasticcere o cioè, ognuno trova, vorrei ben vedere. Anche perché tu nel racconto dicevi che hai scritto tu alcuni sia la trama del murder party, sia il gioco della tutto. Quindi voglio dire, fai altro. Penso che questa sia un'altra delle cose molto interessanti che avvengono alla Gilda: è tutto autoctono. Quindi noi giochiamo al gioco di ruolo da tavolo che è scritto da me, che è Lars, giochiamo a questi murder party, queste serate di gioco di ruolo dal vivo, quindi dove io do una scena iniziale ai partecipanti, ognuno di loro è un personaggio per tutta la serata, secondo un regolamento di gioco essenziale, semplicissimo, che ho scritto da me. E adesso c'è anche la versione videogioco che ho scritto sempre io e che propongo, ma quella è più, diciamo, aperta, perché si può giocare liberamente via internet, quindi la stiamo esportando. Allora, prima di entrare nello specifico, perché questo di internet mi interessa molto, perché mentre sulle altre magari uno si deve organizzare, poi con questo freddo deve uscire di casa, no? Perché c'è questa cosa, no? Fa freddo, rimango a casa, però si vive anche uscendo di casa se fa freddo, e ve lo dice una che soffre tanto il freddo. Ci sono delle date intanto stabilite? No, va su prenotazione, un minimo di 4 persone. Dalle 2 alle 4 persone per tutto il mese stiamo proponendo questi eventi, quando ci sono prenotazioni, quindi comunque a seconda di quello che la gente prenota io organizzo la serata in maniera che sia il più elastica possibile, certo, anche per venire incontro ai turisti e alle persone che vengono da fuori, quindi abbiamo molti visitatori e quindi È importante, certo. E allora facciamo un brevissimo stacco e poi parliamo nello specifico del videogioco e dei turisti. Poi spiegheremo il perché videogiochi e turisti in questo caso viaggiano anche insieme. A tra poco. E allora rientriamo sempre qui a cosa succede in città con Maria Lucia, che sono me medesima, e Roberto il Bach. E allora Bach, parlavamo di questa opportunità che anche un pigro pantofolaio o una pigra pantofolaia in questo momento di freddo può avere, no? Come trascorrere una serata senza televisione e non c'è niente. Certo. Allora, tra le altre cose hai scritto anche un gioco che è online, quindi fruibile, accessibile, molto. Una cosa che mi ha stuzzicato, in che cosa consiste? Ma, la mia idea è di unire la semplicità del libro all'interattività del videogioco. Nasce da così un flash, cioè se tu sfogliassi un libro e tornando indietro le pagine fossero cambiate, da questa idea interattività non finirebbe mai, soprattutto. Esatto, ed è esattamente quello che è questo videogioco, molto semplice. Vuole essere una linea di videogiochi che ho chiamato Swybook, questa interattività in cui semplicemente con Swybook, che è l'unione di swipe, il gesto che si fa sui cellulari per cambiare pagina, e book, il libro. Ah. E quindi l'ho scritto negli ultimi mesi. È molto semplice da utilizzare perché il mio target vuole essere assolutamente familiare. È una cosa, cioè non è il gioco per fissati, quello là per per i nerd. I nerd, categoria che rispetto, però certo, cioè, no, vabbè, però invece, c'è oltre e c'è altro. Sì, invece due comandi per sfogliare come se fosse un racconto e in più, come era una volta delle vecchie avventure testuali, la possibilità di interagire con la storia. Io ho scritto un numero zero che si intitola Ritorno nel castello, che è quello che sto promuovendo ultimamente, che è su internet. Sempre al sito che ricordiamo. Ilbach.it, se si aggiunge ilbach.it/rnc, Ritorno nel castello, si può accedere direttamente al gioco. Non ha bisogno di essere installato, scaricato, non c'è niente, basta andare sul sito e ho scritto tutto il framework che permette di giocare da qualsiasi device, quindi portatili, cellulari, computer, perfetto, eccetera. E la storia riprende i vecchi videogiochi degli anni 90, le avventure testuali, quindi un misterioso e anonimo protagonista che visita un misterioso e anonimo castello alla ricerca dei tesori, ma, e questa è la cosa particolare, la storia si può sfogliare andando semplicemente sempre avanti e passando così dritti nella storia, quindi in maniera quasi superficiale, senza partecipare, che è assolutamente la prima volta che si gioca, è quello che si fa. Oppure ci si può incuriosire: chi è questo protagonista, perché è lì, cos'è quel castello, qual è la sua storia, qual è la connessione tra protagonista e castello. Sono tutte cose che si possono scoprire durante il gioco. Il gioco premia infatti la curiosità, c'è una serie di premi, di achievement cosiddetti, che si possono guadagnare esplorando il gioco di più. Poi ci sono un paio di colpi di scena secondo me interessanti, una parte del gioco ancora è chiusa, che risulta crollata a chi entra nel gioco, che è la parte che ho un attimo limitato perché le idee erano tante, però sono partito da cercando di spalmarle. Questa è la cosa secondo me ancora più interessante, cioè il fatto che il gioco è in divenire. Io durante il gioco stesso chiedo sempre ai visitatori di darmi dei feedback e dei consigli, e quindi ormai è diventata una prassi quotidiana il fatto che io aggiorni questo gioco con nuove idee, nuove. Quindi in realtà se io oggi comincio e ci gioco, diciamo, ed esploro, perché mi sembra molto una questione di esplorazione, esploro per 3-4 giorni, al quinto giorno posso ritornare indietro e sicuramente troverò altri elementi che arricchiranno quantomeno la visione del racconto. Per farti capire, mi è capitato una madre, insomma, esponente di spicco della famiglia, che ha giocato, ha dato il link al figlio e il figlio poi l'ha condiviso con la sorellina e poi con gli amici, quindi questo è stato l'iter, e ognuno di loro mi ha dato un feedback diverso ovviamente. E ognuno di loro, entrando di giorno in giorno, ha trovato delle migliorie o delle cose cambiate, perché comunque ogni giorno il gioco cresce eccetera, quello che, sia tecnicamente che anche nella storia, nelle possibilità di esplorare. Poi quello che è il gioco, il divenire del gioco è molto vario perché tiene in conto tutte le scelte che si fanno all'interno del gioco stesso, quindi delle decisioni scaturiscono in altro e via dicendo. Quindi è come, non so, in un diagramma di flusso, se fai sì vai da una parte, se dici no vai dall'altra e cambia la storia. È ancora peggio perché è come un diagramma di flusso che tu puoi esplorare liberamente, puoi tornare indietro, puoi tornare alle stesse, certo, che hai visitato, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Quindi è molto interessante ogni volta. Attualmente lo sto aggiornando ogni giorno, quindi comunque appunto l'esperienza di gioco va sempre migliorando. Poi a me è interessante, dove è ambientato? Perché ovviamente hai parlato di castello, prima hai detto più o meno dove abiti, quindi dove è ambientato? Grazie per aver fatto questa domanda, veramente. No, no, ma in realtà è funzionale poi a quello che ti voglio chiedere. Ah, quindi no, allora, sembra che io sia qui per caso, però voglio dire, un filo ce l'ho, infatti. Okay. No, veramente l'ambientazione è, allora, durante il gioco, nel gioco si può scoprire abbastanza facilmente che è ambientato in un castello che fa parte dell'ambientazione che io e i ragazzi che giocano con me al gioco di ruolo dal vivo abbiamo giocato nel corso degli anni. Quindi ci sono riferimenti a personaggi che hanno veramente giocato a questo gioco, eccetera, perché la mia idea è di costruire un universo che sia compiuto. Quindi ci sono dei, ad esempio ci sono delle citazioni ad altri swipebook che devo ancora pubblicare, ad altri giochi, oppure anche a Mr. Lawrence, il Murder Party che stiamo facendo adesso, quindi diciamo è tutto in modo che poi quel luogo diventi un mega contenitore, no? Cioè possa diventare un punto di riferimento. È tutto parte di un'unica storia, tutti i giochi, tutto quello che sto scrivendo fa tutto parte di un disegno. Allora, se i nostri ascoltatori non hanno cambiato prima, ma non credo, no, ma non per i nostri contenuti ma per la canzone che ho passato prima, no, spero di no. Io ho detto che comunque tutto questo poi era, in tutto questo c'entrava anche il turismo, i turisti, no? Sì. Perché? Perché nel corso degli anni ho avuto, nasce da una curiosità, cioè quella degli altri di visitare il luogo, di persone che hanno visto la zombie walk, hanno visto le iniziative che faccio, anche contro la mafia, le cose sociali, eccetera, e sempre più spesso mi chiedevano cos'è questo luogo, lo voglio visitare, lo voglio vedere, eccetera. E quindi abbiamo creato uno spazio per accogliere questi turisti che possono restare con noi, con un B&B, insomma, e quindi possono passare del tempo lì e la cosa sta piacendo moltissimo. Sono tanti, anche soprattutto gli stranieri, che vengono a visitare il luogo, che vengono a esplorare questo posto, a venire a contatto con questa realtà. Molti anche l'approfittano per un viaggio, insomma, chiaramente più ampio, Sicilia, Calabria, eccetera, però... Quando si parla di marketing territoriale, probabilmente si potrebbe anche declinare in questo modo così nuovo, no? Sicuramente non banale, con offerte che sono in progress, quindi, e soprattutto che sono aperte, se ho capito bene, ai suggerimenti, alle sollecitazioni che vengono da altri. Assolutamente sì, io ho avuto il privilegio, secondo me, di poter proporre le mie idee molto fuori dal contesto reggino. Ho scritto l'anno scorso un gioco da tavolo per un contest a livello mondiale che ha portato molta visibilità ai miei progetti e via dicendo, e quindi poter parlare a queste persone bisogna dargli un input che sia un po' più universale del dire vieni a Reggio a visitare Cesare, il certo, gelato, le cose, eccetera. Sì. Quindi comunque quello che facciamo è incuriosire su un aspetto un po' più ludico ma interessante, anche pieno di contenuti, e poi dal mio punto di vista è assolutamente privilegiato perché mi ha permesso di venire in contatto con tante culture diverse, sono venute persone da tutti e cinque i continenti, la possibilità di anche di cogliere il fatto che ognuno di noi ha delle piccole abitudini, delle piccole fissazioni, e quindi anche in questo l'ospite viene vissuto, viene messo a suo totale agio. Anche perché poi questa pluralità di richiesta ti permette anche di far crescere la tua offerta. Sì. Cioè, ognuno è diverso, quindi tu ti devi adattare se vuoi e fai anche tesoro di questo tipo di... E io nel corso degli anni ho avuto richieste veramente molto varie, dalla famiglia che vuole la cena in stile totalmente medievale, quindi mi è capitato con una famiglia toscana che è voluta veramente tornare indietro nel tempo, quindi reinterpretare una cena proprio con costumi dell'epoca che noi abbiamo là in associazione, con costumi, e fare una cena totalmente in stile come se fosse la famiglia, però negli anni, nell'anno 1000, una cosa particolare. Fino ai giapponesi che vogliono fare le loro passeggiate in auto. Questa è una cosa che... Quindi vabbè, diciamo che c'è stato un po' no, di... Sì, una cosa trasversale. Quindi quando dicono che il turismo arranca, forse sì, dovremmo puntare a realmente un turismo diverso. Perché ad esempio ci sono alcuni tipi di turismo che vanno tanto, e delle zone, mi viene in mente comunque la Ionica, partendo dall'accoglienza diffusa o comunque dei viaggi esperienziali, quello è il nuovo modo di viaggiare e fa molta presa. Assolutamente. Prima dell'ultimo break, per poi ricordare appuntamenti e riferimenti, vabbè, intanto è gratuito il gioco, questo lo diciamo così. Ovviamente sì. Questa è una cosa che... Basta visitare il sito e si può giocare in qualsiasi momento, gratuito, qualsiasi tipo di device, quindi dal cellulare fino al mega schermo del computer. Sì, ma no, in realtà anche il 55 pollici che è attaccato alla non so, il mio, cioè le smart TV sono così. No, poi sì. Devo capire ancora come funziona. Però c'è scritto che tipo no, il leitmotiv dei miei auguri di Natale è stato inframmezzarli con gli screenshot delle persone che mi mandano gli screenshot del gioco da qualsiasi device. Dico, ma sono bloccato qui, ma questa cosa e quest'altra. Quindi c'è anche un supporto. Sì, assolutamente. Vabbè, però la domanda prima di passare al break e poi alla chiusura è: una realtà di questo tipo, cioè non so, i tuoi visitatori ti hanno detto se ci sono realtà di questo tipo? Tu sai se ci sono realtà simili alla tua in giro da altre parti? È una domanda complicata, perché come la mia sicuramente posso esserne certo no, nel senso che quello che proponiamo, come ho detto, è molto autoctono. Vabbè, non ti preoccupare. E quello che proponiamo è un'esperienza adesso totale, perché dall'hospitality, chiamiamo così, fino al gioco è una cosa particolare. Poi chiaramente in altre parti d'Italia, ad esempio la Toscana, so che ci sono associazioni che fanno però in maniera settoriale qualcosa che faccio anch'io, ad esempio la ricostruzione degli eventi storici, mi viene in mente, che però è già un'altra cosa. Quindi invece tu fai una cosa, un'offerta molto più ampia. Sì, è perché la mia idea è, io non faccio, non voglio spettatori da me, tutti sono protagonisti. Chi viene a una serata di gioco, ad esempio anche questi qua, i Murder Party, non c'è l'attore che ti fa la scenetta e poi ci sei tu che devi indovinare. Sono tutti protagonisti. Che sei da sperimentare, questa cosa assolutamente è molto sì, interessante. Anche perché ogni mese vado a scrivere una storia nuova e proporre quindi esperienze nuove. Mica male. Va bene, allora breve break e poi torniamo, quindi prendete carta e penna, telefonini se volete cominciare a guardare e ad appuntarvi, e ci ribecchiamo tra pochissimo anche per i saluti. E allora, avete preso carta e penna, ma anche se non l'avete presa, il bac.it, con l'articolo, il bac.it. Ah, ecco, bac con la K, è vero, io lo do per scontato. Perché mi confondo col musicista, altrimenti. Però lì è CH, esatto. Quindi... il bac.it, oppure gildartisti.org. Quindi, vabbè, ci sono i riferimenti, oppure, come si chiama il gioco? Il ritorno nel castello è quello attuale, ma in generale basta cercare Swipebook e si c'è questa linea di giochi che andrò a pubblicare di volta in volta. Perfetto, giochi gratuiti, quindi in queste serate di freddo potete sperimentarlo. Ma io direi, possono sia trovare un paio di amici e venire a giocare direttamente, sia stare... Perché lì è riscaldato. Assolutamente. Quindi sì. Voglio dire, spiegiamo. Voi salite, salite in macchina, accendete l'aria condizionata. Devo fare il momento, locali riccamente riscaldati, a prova di freddoloso, garantisco io che sono freddoloso. Quindi voglio dire, andrò anche io che sono freddolosa. Parcheggio quindi siamo interno videosorvegliato, insomma. Quindi tranquillo, cioè, ci abbiamo tutto. Ma la cosa importante è che anche voi potrete proporre qualcosa. Certo. Questa è una cosa da tutti. Cioè. Tramite l'associazione è possibile anche associarsi e proporre dagli artisti che vogliono fare concerti e spettacoli, fino ai professionisti che vogliono magari collaborare con la nostra realtà. E quindi va bene, ricordiamo che si può partecipare al Murder Party ogni mese, una storia diversa. Ogni mese scrivo una sceneggiatura diversa, sì? La propongo tramite il sito, quindi trovano tutto il calendario di eventi sul sito ogni mese. Perfetto. Inoltre c'è molto importante la nostra newsletter, che è sempre da ilback. A cui io mi sono iscritta, tra l'altro, visto, devo dire. Ma non ho ricevuto risposta, adesso te lo dico. Cioè, mi devi rispondere e dirmi ti sei iscritta, bravo, complimenti. No, quando mi arriva la newsletter vedo che mi sono ogni settimana arriva una mail semplicissima, quindi niente spam, niente problemi, eccetera, che riporta le varie iniziative. C'è un breve editoriale mio all'inizio, 4 righe di introduzione, e poi tutte le iniziative di quello che organizzo. Perfetto. E allora ci vediamo alla Gilda e a Saracinello all'uscita, allo svincolo. Eventualmente c'è anche il tono di telefono, quindi se ci fosse qualche problema alzate il telefono e Bach vi darà le migliori indicazioni per raggiungerlo. Va benissimo. Noi, Maria e Lucia, ti ringraziamo. Ringrazio io per l'ospitalità, gentilissima come sempre. Grazie mille, ringrazio i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici per essere stati con noi. Noi ci ribecchiamo con Cosa succede in città martedì. Oggi è giovedì? Sì, martedì ci riascoltiamo. Dovrebbe essere speciale comune, comunque lo saprete consultando le nostre pagine Facebook. Saluto anche Mirella che forse ci sta ascoltando, se no vabbè, qualche Mirella che ci ascolta magari c'è. Buon proseguimento di serata, alla prossima. Saluto a tutti. Ciao.